لن تراه. لن ترى لن ترى. بنتورناتي su Radio ZM. Scusate il tono di voce, però questa musica è troppo bella, mi ha veramente calmato. Intanto che ci prestiamo a mettere un altro brano sempre dedicato alla puntata, Giulia è arrivata, quindi fra poco cominciamo. Rimanete sintonizzati e ricordatevi di iscriverci alla pagina Facebook per qualsiasi cosa, il canale Telegram e il canale MixXX per i podcast. Cioè, che musica pazzesca, mi sta calmando un sacco. Bentornati su Radio ZM, questo sarà il mio tono di voce per tutta la puntata, a meno che non si tocchino temi un po' più caldi. 15:18, oggi è il 27? 28, madonna, sto perdendo i giorni, penso un po' tutti e un po' tutte. 28 di marzo 2020, battezziamo un programma nuovo oggi, finalmente. C'erano delle voci di corridoio che ci iniziavano a promettere un programma nuovo e ora ce l'abbiamo. E ho qui con me Giulia, che è la sua prima volta in radio. Finalmente sì, fisicamente qua in radio. Era arrivato il momento. Esatto, perché siamo riusciti a installare un telefono che ci permette di effettuare telefonate fuori da queste mura. E Giulia siamo andati a pescarla più volte, sia per il programma di Cazzeggio Totale, sia per un altro programma che avete messo su voi. Vuoi raccontare già, qualcosa? Le Ribelli. Abbiamo messo insieme un tot di persone dislocate un po' ovunque in questa Lombardia per parlare un po' di temi femministi e continuare la nostra lotta, anche se distanti col corpo, ma vicine col cuore, e arrivare così dentro le case delle persone e portare un po' di tematiche che ci sono molto vicine e, nonostante la quarantena, magari parlarne, affrontarle, discuterne insieme, confrontarsi. Questo era un po' questo è l'obiettivo del nostro programma femminista. Sì, lo scopo un po' a livello collettivo è di tenere la radio più accesa possibile. Ci stiamo provando, ci stiamo anche riuscendo. Ogni tanto è solo internet che ci mette i bastoni tra le ruote, in realtà, perché se fosse per noi saremmo ancora più attivi. Ci scusiamo anche per stamattina che abbiamo mandato un po' di rotazione musicale selezionata, ma ovviamente la connessione saltava. Ora siamo coperti dai telefoni, quindi riusciamo a star su. Sì, no, è tutto attaccato, tranquillo. E bene, quindi rimanete sintonizzati su questo canale. E vi ricordo che avete la possibilità di iscriverci alla pagina Facebook per qualsiasi cosa, anche durante la diretta, soprattutto durante la diretta, e il canale Telegram per ricevere tutte le informazioni di quando andiamo in onda o degli articoli che facciamo girare, dei collegamenti vari che abbiamo ed eventuali, e Mixcloud per i podcast. Anche questo diventerà un podcast, quindi sentirete la mia voce che dice che anche questo diventerà un podcast dentro il podcast. Bellissimo. E andiamo subito al sodo? Andiamo al sodo. Cosa stiamo facendo oggi? Allora, oggi inauguriamo una piccola rubrica, se così possiamo chiamarla, creando una connessione ancora più lontana. Non ci basta la Lombardia, no. Non ci basta l'Italia, non ci basta l'Europa. Ma proprio... Noi abbiamo deciso di andare in Medio Oriente. Giusto. Fantastico. Io sono troppo contento. Ma in un posto molto specifico. E un posto che io ho dentro al cuore, a cui voglio veramente molto bene. E sarebbe appunto la Palestina. Adesso non so se tutte le persone che ci stanno ascoltando hanno più o meno presente dove si trova la Palestina, cosa succede in Palestina. Ecco, questa rubrica servirà a parlarne un pochettino, a scoprire questa terra, i suoi abitanti ovviamente, la sua storia, e sarà anche un modo per collegarci con loro, perché anche loro stanno facendo la quarantena, solo che la loro quarantena è un pochettino più particolare della nostra, perché per tutti quelli che non lo sanno, la Palestina è sotto occupazione da ormai parecchi anni, dal 1967 ufficialmente. Ora non voglio fare pipponi di storia perché magari diventa anche un po' come noioso, no. Ci sarà il momento, ci sarà sicuramente il momento, magari non la puntata zero, inserisco diciamo qualche nozione qua e là. Mi piaceva però magari presentare la Palestina come l'ho raccontata negli ultimi tempi, dalla prima volta che sono stata lì, e perché appunto a me piace definirla in un modo un po' specifico. Vai. Se tutti più o meno conoscete la Sicilia, avete presente com'è fatta la terra, gli alberi, le arance, il profumo, i colori e anche le persone, ecco, immaginate che i palestinesi e la Palestina sono i fratelli gemelli e la sorella gemella staccata alla nascita alla Sicilia. Ma io adoro la Sicilia. Ci sono e stato come un si sacco fa a non volte adorare la Sicilia? Le persone sono estremamente solari, ti offrono sempre da mangiare, cioè buon cibo. Esattamente la stessa cosa per i palestinesi e per la Palestina. I colori sono molto simili, ci sono un sacco di olivi, la terra è quella un po' secca, il sole è quello accecante, e le persone, nonostante, io dico sempre, nonostante vivano sotto occupazione da ormai diversi anni, hanno dentro proprio nel DNA l'accoglienza, ti fanno sentire a casa, e ovviamente l'accoglienza per cosa passa? Per prima di tutto per il cibo. Non si può assolutamente rifiutare un pasto con dei palestinesi, perché si offendono a morte. E il loro obiettivo è farti stare bene, farti sentire parte della famiglia, lo fanno proprio attraverso il cibo. E insomma, andare in Palestina significa ingrassare, sicuro. In questi giorni sto vivendo con Guglielmo a casa e sta assistendo al fatto che mi faccia ogni 2 secondi una tisana, ogni 2 secondi un tè, ogni 2 secondi un caffè, e mi fa: tu staresti proprio bene in Palestina perché ogni 2 secondi a rotazione vanno avanti a bere cose, vero? Sì, anche quello è un momento molto importante. I palestinesi bevono tantissimi caffè, è un caffè diverso dal nostro, Macio lo definisce sabbioso, perché appunto devi far bollire l'acqua, a un certo punto butti il caffè proprio dentro l'acqua. In polvere. In polvere, e insomma c'è questa tecnica, è ben precisa, se no il caffè non viene bene. Devi far bollire un tot di volte, far sbollire, bollire, sbollire, e a un certo punto lo versi nelle tazzine e devi aspettare che la sabbia sia scesa, perché altrimenti ti impasti tutta la bocca. A differenza del nostro caffè, è molto saporito, perché spesso c'è dentro il cardamomo, che non so se Zucco è all'ascolto, vorrei tanto di sì, ma mi sa di no. No. Lui odia profondamente questo caffè perché è troppo saporito per lui, e per lui ogni volta andare in Palestina è una sofferenza con questi caffè che ovviamente ti vengono offerti e non puoi rifiutare. E per loro è proprio un rito, cioè anche quando arrivi in casa di qualcuno la prima cosa che ti viene offerta è il caffè. Oppure subito dopo il tè, tendenzialmente dopo i pasti. E anche qui è un tè molto saporito perché c'è la salvia o la menta dentro. Quindi è proprio un modo per stare insieme per loro, bere il caffè e il tè. Vuoi una notizia lampo così che ci è appena arrivata? Super notizia. Zucco ci sta sentendo. Grande Zucco, come stai? Ciao Zuccus. Io rimango veramente sbalordito dalle mie compagne. Queste sono nate per far la radio. Giulia ha urlato a bassa voce per non intasare il microfono spostandosi leggermente. Una professionista. Andiamo, speriamo, scusa, speriamo. Chiudo parentesi, vai. Ciao Zucco. Ciao Zucco. E niente, questo è un po' l'aspetto, diciamo, d'impatto quando si va in Palestina. Poi ci sono tantissimi aspetti di cui si potrebbe parlare. Appunto, come dicevo prima, la loro quarantena è un po' particolare perché loro vivono sotto occupazione, ovvero Israele dal 1948 ha fondato il suo stato lì, ed è per questo che la Palestina è divisa tra quello che i palestinesi definiscono proprio il 48, che sono i territori del 48 che ormai costituiscono lo stato di Israele, e la Cisgiordania, che però ovviamente vive sotto occupazione, quindi ci sono i soldati, ci sono diverse zone definite in A, B e C dove si può circolare con determinate regole. E ci sono dei campi profughi, che è una cosa abbastanza unica nel mondo, proprio perché i palestinesi sono rifugiati politici nella loro stessa terra. Quindi quelli che sono stati cacciati dalle loro terre nel 48 ora vivono in altre zone, dislocati nella Cisgiordania, però pur sempre rimanendo in Palestina. Altri campi profughi li possiamo trovare anche in Libano, in Giordania, insomma, diciamo che il fenomeno del dislocamento è molto ampio, però la particolarità è appunto che si possono trovare questi campi profughi, ad esempio dove sono stata io per 6 mesi, a Betlemme. Tutti conoscono Betlemme, in Italia è molto famosa proprio perché è dove è nato il nostro Signore Gesù Cristo. Anche in chiave turistica, mi viene da dire, metambita. Sì, è veramente impressionante trovarsi lì proprio nel periodo di dicembre, proprio perché, altro che realtà distopica, passi dal centro di Betlemme pieno di turisti provenienti da ogni parte del mondo, una Betlemme veramente illuminata, perché poi loro hanno questo senso un po' kitsch delle festività, e vi assicuro che noi non possiamo assolutamente competere a livello di luminarie con Betlemme e alberi di Natale. E fai 1,5 chilometri e arrivi appunto nei campi profughi, dove appunto vi lascio immaginare. È divertente vedere alcune volte che arrivano questi, chiamiamoli turisti politici, quindi persone che sanno che tipo di situazione politica e sociale c'è lì, e si aspettano di trovare un campo profughi fatto di tende, perché nel nostro immaginario è quello. Nel mio pure. Però dopo 70 anni possiamo ben immaginare che le persone si siano auto-organizzate e abbiano costruito, ovviamente l'urbanistica ci spiace, ma qua non è arrivata, quindi case arroccate una sull'altra, quindi famiglie che man mano che i figli crescono e si sposano costruiscono un piano sopra l'altro per dare spazio alle nuove generazioni. Cunicoli dove veramente è facilissimo perdersi, ci vuole tempo per imparare le strade dentro un campo profughi, poi dipende anche da quanto è grande. E a Betlemme c'è uno dei più grandi della Cisgiordania, quello di Deisha, dove io ho avuto la fortuna e l'onore di vivere e dove sono stata accolta da una famiglia fantastica. Il secondo di Betlemme è Daida, dove anche lì ho un pezzo di famiglia. E una delle persone che tra poco andremo a chiamare. Attenzione, perché questo programma prevede appunto le telefonate. Esatto, noi volevamo... Oh, scusami Lore. No, vai, vai, vai. No, volevamo appunto capire come stanno vivendo loro la quarantena, perché a differenza nostra, vedi, nonostante le situazioni e gli strumenti, sono decisamente più furbi e più organizzati di noi. Non appena si è presentato un caso di coronavirus, hanno chiuso tutto. Tutti bloccati, con addirittura il coprifuoco. Ok, quindi loro sono ufficialmente a... di quanti giorni si sta parlando? Un mese ormai. Esatto, loro sono in quarantena, sì, praticamente da un mese. Appunto, come ho detto prima, Betlemme è una città estremamente turistica. Ci arrivano persone da tutto il mondo e adesso, se non ricordo male, se non sto per dire una fregnaccia, a me mi era stata riferita così, poi magari non era ufficiale, però sembra che sia stato portato da dei turisti coreani. E ci sono moltissimi alberghi lì e tantissimi palestinesi lavorano appunto in questo settore, quindi è un attimo. E soprattutto nei campi profughi vivono famiglie estremamente numerose, perché anche lì grande particolarità e resilienza, questa la definisco, dei palestinesi. Nonostante vivano sotto occupazione, nonostante Israele faccia di tutto per eliminarli e di fatto attuare una sorta di genocidio, i palestinesi mettono sempre al mondo più figli degli israeliani. Hanno delle famiglie numerosissime, grandi, che vivono tutte insieme in pochissimi metri quadrati. Che figata! Sì, sono estremamente forti e potenti, esatto. Bene, ma posso farti delle domande riguardo al tuo viaggio? Assolutamente. Perché hai deciso di partire? Com'è successo? È successo che... Era tanti anni che io leggevo, guardavo documentari sulla Palestina, mi informavo attraverso dei carissimi amici che sono stati lì tramite dei campi di volontariato, e nel 2017 la fortuna ha voluto che uno di loro, un palestinese del campo profughi di Deisha, fosse qua in Italia con un altro progetto e fosse alla ricerca di un gruppo di persone che arrampicasse, facesse arrampicata sportiva, e gli hanno indicato il centro sociale ZAM, perché abbiamo, come tutti voi ben sapete, una bellissima palestra di arrampicata e un gruppo di l'acciaieria e un gruppo di ragazzi che la autogestiscono. E quindi Naji, si chiama così, è arrivato lui da noi e ci ha proposto questo progetto, e abbiamo messo insieme questo progettino qua di scambio per portare questa pratica sportiva all'interno di un campo profughi, dove vi faccio immaginare, cioè potete immaginare tranquillamente le risorse per accedere a uno sport del genere non sono proprio così immediate. Primo, no, perché costano, e soprattutto perché ci vogliono anche delle persone che sappiano farlo. E quindi è iniziato questo scambio. La prima volta, dicembre 2017, io mi sono perdutamente innamorata di Deisha, di Leilac, che è appunto l'associazione con cui noi collaboriamo, in particolar modo di Naji, la seconda persona che andremo a chiamare dopo, che è come un padre per me, il mio papà palestinese, e da lì ho capito che la mia vita poi sarebbe passata tra andi e rivieni tra Italia e Palestina. E quindi io ho scritto un progetto per, in quanto faccio la messa d'asilo, ho scritto un progetto per poter stare lì più a lungo possibile, così ho fatto, e mi sono barcamenata in questi asili di bimbi palestinesi, maestre palestinesi, fantastici, che mi hanno accolto come credo da nessun'altra parte possa essere possibile. E di fatto ho lavorato anche come volontaria in questa associazione, creandomi il mio spazietto, il mio posticino. E appunto ormai ho una famiglia lì. Io ricordo ancora il giorno quando sei tornata la sera, che poi abbiamo fatto la cena di compleanno di 2 anni fa, che ci hai raggiunto al ristorante. Sì, nei miei vari momenti di transito. Esatto. Sì. Bene, mandiamo una canzone, perché la cosa bella del programma di oggi è che la musica è tutta dedicata. Mi è stato chiesto di scaricare dei brani e sono molto contento di questo perché apprezzo moltissimo questo tipo di musica e la sfortuna è che non ho assolutamente i canali per conoscerla e un po' anche la pigrizia di andare a cercarla, però è bello secondo me questa cosa della radio perché viene chiesto un po' a tutti e tutte di portare dei contributi musicali che rimangono poi in database e nel momento di rotazione musicale anche notturna è possibile che vengano ripescate queste canzoni, quindi viaggeranno per tutto il tempo della radio nelle nostre frequenze, però te la scegli te. Qua, da questo schermino. Allora, adesso la scelgo, ma credo di avere già abbastanza un'idea chiara. E io in merito alle canzoni faccio una specifica. Avendo vissuto là, ne ho sentite, mi è stato fatto proprio una cultura. Poi io ho una brutta memoria riguardo i nomi, quindi... E quindi l'altro giorno sono subito ricorsa ai miei amichetti. Perfetto. E in particolar modo ringrazio Man. I would like to thanks Man. Spero che dopo mi ascolterà, gli manderò la registrazione, e Mahmood, che ovviamente sono due persone che di musica se ne intendono e loro mi hanno subito risposto mandandomi miliardi di canzoni e vediamo, potrei scegliere. Ci sentiamo fra poco? A tra pochissimo. What's the soul of the 47? Giulia, qua ci arrivano dei messaggi di complimenti, ma tu ti rendi conto? Cioè, la gente ci sta ascoltando. Io sono molto emozionata, visto che è la mia prima volta. Ringraziamo tutti e tutte, grazie Giulia, grazie anche ai messaggi che sono arrivati riguardo alla musica. Faremo il possibile, Riccardo, non ti preoccupare. No, Riccardo, le tue canzoni, mi spiace, oggi proprio non è cosa, no. No, ma non è una questione personale, penso che sia proprio una questione di principio. Ciao Ricky, non vediamo l'ora che vieni anche te qua, perché dobbiamo formare la nuova Jalapas Band, ma ne parliamo dopo. Prego. Allora sì, allora io direi che è il momento di chiamare, sta già chiamando lui, cioè addirittura siamo così... Ci squillano i telefoni in diretta. Eccolo, Bilal. Bilal? Ciao Bilal, ci senti? Bilal? Sì, ti sento, dimmi. Ciao Bilal, come stai? Sei in diretta su Radio ZM. Bene, bene. Voi come state? Noi stiamo bene, Bilal, siamo in quarantena anche noi, esattamente come voi, ma la stiamo facendo forse un pochettino in ritardo rispetto a voi. Sì. E infatti ti chiamavamo proprio per questo, Bilal, se ci vuoi un pochettino parlare chi sei tu, dove stai, cosa fai, perché sappi che alcuni ascoltatori, alcune ascoltatrici italiane magari non sanno bene, e raccontare un po' della vostra quarantena in Palestina, dove vivete sotto occupazione. Cosa succede? Come funziona? Allora, da noi dall'inizio, come è stato, ho trovato due ragazzi che lavorano a un hotel che loro c'è il virus di corona, e subito le presenti di Palestina e chiusano la città di Betlem. Allora, come io, anche uno che abita al campo profughi di Haida, e noi subito fatto l'assemblea al campo, e noi fatto il gruppo delle emergenze del campo. La prima cosa che noi abbiamo pensato, come aiutare gente e portare tutte le cose importanti per usare la gente nelle case, come l'aigel, cloro, per pulire le strade, le entrate di casa e tutto. Del primo giorno e noi ho cominciato il pensiero di queste cose. Subito le gente qui ha capito che non è un scherzo, soprattutto che noi in Palestina da 70 anni che siamo sotto occupazioni, che abbiamo bene, che significa... Che vuol dire emergenze, che significa anche una cosa pericolosa. Per quello non è stato difficile per tutti andare a casa. All'inizio, i primi tre giorni normali, che la gente pazienza, c'è la pazienza delle gente, perché la gente vuole comprare la roba per le case, eccetera, eccetera. È stato i primi tre giorni un casino, piano piano ho cominciato le gente a capire le cose veloce e stare a casa. E noi, che anche io, uno dei gruppi delle emergenze del campo, lavoriamo 24 ore per aiutare le gente del campo. Ogni due giorni pulisciamo la strada e mettiamo la roba, diciamo, chimica e contro il virus in tutte le strade. Se vuoi guardare questo, tutto questo, poco di cosa aiuto, poco, quanto io dico poco, poco cosa aiuto del il governo e tutto l'altro resto aiuto tra le gente del campo, che infatti, uno aiuta. Bilal, volevo fare una piccola specifica perché magari qualcuno non lo sa. Bilal appunto ha detto che vive nel campo profughi di Haida, vicino a Betlemme, ha praticamente attaccato. E la cosa spettacolare dei loro che vivono in questi campi profughi è la loro forza e la loro unione. Loro non hanno aspettato aiuti dal governo che, diciamo, appunto Bilal dice che sono pochi e sono probabilmente anche arrivati magari tardi. Loro come gruppo comitato del campo profughi si sono attivati subito immediatamente per i propri abitanti in autonomia con gli strumenti che avevano a disposizione. Questa non è una cosa indifferente, è proprio una grande testimonianza di comunità resistenti che tengono l'uno all'altro, giusto Bilal? Sì. E poi anche ogni giorno noi sul microfono parliamo con le gente e mandiamo un messaggio alle gente per fargli capire cosa c'è, dove siamo arrivati, che è successo anche nella città e nelle zone vicine del campo. Finora siamo molto molto bene come gente del campo. Non c'è nessuno malato dentro il campo. Questa è una bella notizia. Come noi di città di Betlehem in Palestina, siamo della zona rossa, proprio rossa rossa, perché è l'unica città che c'è la sacco di persone che c'è il virus. Per quello è stato la città è chiusa di tutte le parti. Nessuno può uscire, nessuno può entrare. Il messaggio che io voglio dire a tutti gli amici, compagni, conoscenti della Palestina, per favore, state a casa, perché questa cosa non è una cosa scherzo. Per noi ha avuto un po' di intifada, un po' di attacco e tutto quello. Noi non è stato mai paura, perché sappiamo che sta davanti a noi, ma su questo virus tu non sa dove il virus conquista. Per quello dall'inizio noi abbiamo detto alla gente al campo, ognuno vede tutti che stanno malati, anche tutti gli altri vedono a te che tu sei malato, così ognuno lontano dell'altro. Per questo momento, per rimaniamo tutti bene. Speriamo che rimaniamo così, perché la vita bella si vincerà se torniamo tutti insieme, abbraccio uno, abbraccio l'altro, da qui, dalla Palestina fino all'Italia. Le più importanti non vedere nessuno muori. E quello le più importanti. Le più importanti anche che ognuno sta vicino all'altro e chiede il vicino se bisogno di qualcosa, se uno può aiutare l'altro. Questo momento bisogna di tutti stare vicini. Vicini dell'aiuto. Non è che uno ce l'ho il cibo e l'altro no e dici io non me ne frega di quella persona che non ce l'ho. No, aiuta il tuo vicino. Per questo momento, per vediamo fino a quanto rimanere questo casino e questo virus, perché nessuno sa. Da noi in Palestina, subito noi è entrato nell'emergenza di 4 fino a 6 mesi, perché non sappiamo fino a quanto rimanere questo virus. Hai perfettamente ragione Bilal, è importante quello che hai detto. Siamo molto d'accordo con te, infatti stiamo cercando il più possibile anche di parlare di queste cose e di confrontarci con chiunque incontriamo in giro, perché la situazione qua è molto tesa e si sono già mostrati dei momenti di tensione tra la gente e anche di sfiducia verso il prossimo, perché come giustamente dici tu, questo virus non ha un volto e quindi il razzismo che esce fuori dalla nostra parte, soprattutto in Italia, secondo me, è proprio perché chiunque può essere portatore di morte in questo caso e quindi si ha molta sfiducia. Questa cosa è sbagliata, questa cosa non va bene, non è sana e stiamo cercando il più possibile di rimanere vicini nonostante non si possa fisicamente rimanere vicini. Anche secondo me questo momento non è il momento di dire che sei un comunista o sei un razzista o sei un fascista. E questo è il momento di tutti stare insieme. Ma io ti dico la verità, sono anche molto molto molto contento che c'è questa cosa. Perché? Perché almeno siamo tutti uguali. Tutti uguali, non c'è uno poverino, uno sì, ricco. Sì, la penso esattamente così. Sei ricco, cosa fai con tutti i soldi che tu non riesci anche a aiutare uno che stai malato? Niente. Per quello io dico, pensate bene di uno stai vicino all'altro. Basta, questo è il più importante. Dopo quello torniamo, litighiamo insieme che sei ricco e io sono poverino. A questo momento bisogna di tutti essere bravi e vicini. Quello è il più importante. Bravo Bilal, hai perfettamente ragione, siamo assolutamente d'accordo con te. Ancora una volta i compagni e gli amici palestinesi ci insegnano un po' come affrontare determinate situazioni un po' inusuali e la vostra forza c'è assolutamente di esempio. Io devo dire che in questi giorni, guardando le notizie sulla Palestina, devo dire che ispirate molta, molta forza e fiducia. Sì, sono totalmente d'accordo. E chissà quando ci riabbracceremo, Bilal. E io ti dico se abbracciamo molto, molto presto. Sì? Molto, molto, sì, molto presto. Ok, dai, io ti credo e lo spero tanto. Che rimaniamo a casa. Adesso rimaniamo a casa. Sì. Noi ho passato le 3 settimane, come qui, come siamo anche in contatto di tutori, tutti qui, le 4 settimane, diciamo, la fine del mese, e questa è la settimana che è più pericolosa per il virus. Per quello è stato difficile dall'Italia, perché nessuno ha pensato dall'inizio, e anche non è stato, se il governo non è stato sincero con tutto il popolo dell'Italia, neanche è dato qualcosa. Noi, dico la verità, è stato loro sinceri, è stati bravi a dire tutte le cose dell'inizio. Per quello noi siamo stati finora non morto tanti, morto una persona. Mi dispiace per questa signora, è quello che c'è. Le più importanti rimaniamo a casa, amici. E più importanti, di nuovo ripeto, di terza ripeto, rimaniamo a casa. Siamo a stare tutti attenti, per quello finisce presto, torniamo presto e abbracciamo tutti insieme presto. Da me, da tutti i compagni e tutti gli amici della Palestina, del campo di Aida, mandiamo un abbraccio grande, grande a tutti dall'Italia, dal nord al sud, dall'est all'ovest, per torniamo tutti insieme. Grazie Bilal. Grazie Bilal, mandiamo anche noi un abbraccio a tutti quanti voi, ad Aida e alla Palestina in generale. E speriamo di poterci abbracciare veramente presto. Grazie per averci raccontato, magari nelle prossime settimane appunto ci risentiremo, così ci aggiorni sulla situazione. Sarebbe bellissimo. E come state e come sta andando, va bene? Va benissimo, siamo sempre pronti per raccontare tutti che c'è di qua. Lo so che tu sei sempre pronto. Grazie Bilal. Grazie Bilal. Da. Forti, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Bene, prima stavamo cercando una canzone, scusate per il momento di silenzio, però qua è tutto un po' arroccato, ma ce la facciamo, e penso di averla trovata. Oh, allora sei troppo bravo. Mettiamo quella? Mettiamo quella. Mettiamo quella, ci sentiamo fra pochissimo. طفي بردي يا بحور زملوني وزملوا على صدري حملوا كفي روحي كفي روحي كفلوني يا العيون حناطيني كفليني علم القاسي الحنو سند أنثى بألف رجال تبني بظهره سدود بين أسود الدور تضوي سما ننجو لما تطغى براسي نفسي وتبدأ تنهاشني الوحوش غيرك عنهم ما بيحوش فبخوفهم فيك إنه بلاها بترجعوا أنقص كيان مو بس ضلع اللي زنب عن هوا قومي يا طوف عن الروى علمي العطاش ترتوى عمروا في عمروا جيل وعطوا عمر للمروى ما بيخافوا الدم ولا بيهابوا الموت بس بيخافوا اللي بيحب يطلع له صوت خوفهم فيك يكبروا فيك بعلمهم فيك Eccoci tornati, salutiamo Riccardo e gli diciamo che effettivamente i titoli delle canzoni sono molto complicati magari anche da leggere così al volo. Noi ci proviamo, però poi mettiamo la tracklist. Così... Questa era Bu Kultum Zambelu. Esatto, però poi alla fine lo del spelling. Podcast mettiamo una bella tracklist come facciamo per le DJ, che salutiamo. E... Ciao Gia! E io ringrazio perché stanno arrivando davvero tanti messaggi qua in redazione, un po' sui numeri privati, un po' sulle pagine. E grazie, grazie Vlad che ci ha scritto, che ci sta ascoltando, grazie Giulia, grazie ai compagni, grazie alle compagne, grazie a tutti insomma. Grazie a Lore che ci permette di portare avanti questa radio e tenerci uniti in questa quarantena, se non ci fosse lui non ci sarebbe niente. Grazie a Zam che esiste, perché se non ci sarebbe Zam non faremmo niente, o lo faremmo in un altro modo, però non sarebbe così divertente. E in realtà sì, la cosa bella è che in tutto questo brutto momento... Ovviamente tutti e tutte vengono chiamati un po' a esprimere quelle che sono le note positive che vengono fuori da appunto da questo momento particolare, e una di quelle per me è proprio questo strumento, perché oltre a questo momento particolare spero che ci sia la stessa grinta, la stessa passione di portarlo avanti anche oltre, perché può essere molto prezioso soprattutto per la telefonata che abbiamo appena fatto e quelle che seguiranno. Io la mia sfortuna è che non ho mai potuto viaggiare molto. E con questo strumento secondo me si riesce un minimo a viaggiare anche soltanto a livello informativo, con l'immaginazione e con l'emozione. Quindi ringrazio Giulia per questa bellissima idea e spero che vada avanti. Adesso ringrazio anche Macio perché ci sta preparando le grafiche per i programmi, raga. Cioè, le quanto, grafiche per i quanto programmi. Quanto è bravo Macio. Andiamo avanti, 15:57. Radio ZM, ricordatevi di iscriverci sia su Facebook, di ricevere messaggi su Telegram e di ascoltare i podcast. Giulia, tutto tuo. Allora, adesso faccio una breve introduzione alla prossima telefonata. Come dicevo prima, chiameremo Nagi, che è appunto il responsabile dell'associazione con cui abbiamo lavorato noi di West Climbing Bank. L'associazione si chiama Leilac e lavorano a Deisha, nel campo profughi. E Nagi è una persona... stupenda, si occupa veramente dei giovani, della vita sociale all'interno del campo e non solo, e cerca appunto anche di portare avanti questa sorta di memoria storica. La sua attività politica si basa su questo, la memoria storica attraverso la trasmissione nei giovani di determinati valori e di fatto una lotta che ha una forma di espressione diversa tramite attività, socialità, occuparsi del campo stesso. E niente, Nagi, ecco, l'unica cosa è che parlerà in inglese, quindi dovremo fare, per chi conosce l'inglese tanto meglio, lui parla, tutti i palestinesi parlano inglese perfettamente, Per chi non parla inglese, non lo capisce, farò delle traduzioni per quanto ne sia capace, che anche io non è che sono proprio un'esperta. Non mi guardare perché siamo in due. No, capirlo lo capisco, magari a volte, ecco, non siate troppo cattivi nei commenti delle mie traduzioni, perché vabbè, si va un po' a braccia, ecco. E quindi sarà magari un attimino più lenta, ma sicuramente di contenuti molto interessanti. Quindi andrei a chiamare Naji. Ci stiamo collegando, riusciamo a chiamare via telefono, WhatsApp, tutte le varie cose, vari strumenti, casi eventuali, e funziona tutto alla grandissima. Ci siamo. Hey. Naji, can you hear me? Hey, how are you? Hi, Naji, merhaba. Yes, keep I hear you. I'm fine. Hi, how are you? No, wait, Naji, no video call. Just, okay, perfect, thank you. Yes, yes, I turn it, I turn it. Okay. So, Naji, welcome to our radio. You are on air in ZAM and in all Italy, actually. Okay. We call you to speak about the situation now in Palestine, in Daisha, in Bethlehem. How is the quarantine? Because also here in Italy, we have the same situation, but I think worse. And... But I know it's different for you because in Palestine you live under occupation, Israeli occupation. So we call you to understand better the situation. Just one thing, Naji. I will do the translation after you speak, because no, everybody speaks English, okay? I will make short sentences, okay? Okay, thank you. So tell us. How are you? How is the situation in the camp? Yes, our situation is like yours, you know, and there is a little bit difference because here we are stay at home and respect somehow, but not everybody. People, they start to understand slowly because here even... Sorry. Ah, ok. Yeah, you can translate, sorry. Thank you. Dice che appunto la situazione è molto simile alla nostra, ma loro si sono attivati abbastanza in fretta e hanno messo appunto tutti in quarantena col coprifuoco, però non tutti hanno capito, adesso vivono, stanno tutti a casa, ma non tutti hanno capito subito la gravità della situazione e quindi c'era adesso pian pianino invece iniziano a capire anche a stare a casa un po' più tutti. Now the PA trying to explain to the people that they have to be, you know, at home and to stay at home because it's safe for them and for the others. And people, I mean, totally they are that, but the other people, you know, they going on, and the PA they can't do as curfew officially. We can't say that because in our mentality, only the occupation they can make curfew and we don't respect. Naji dice che appunto è un po' complicato far capire ai palestinesi l'importanza di questo coprifuoco, perché loro sono abituati all'occupazione israeliana. I coprifuoco di solito avvengono per questo motivo, imposti appunto da Israele. Quindi in questa emergenza che riguarda la salute delle persone, non tutti hanno capito l'importanza dello stare a casa e rispettare il coprifuoco. And here for us the difficulties is people they are living common life, people they talk to each other usually and they visit each other, this is more important. And for me, in the example, there is a neighbor, they come to drink coffee with us in the morning and I say to them, yeah, okay, now we can drink coffee this time but not another time, because I know they don't understand me very well, but I told them that it's I want to save you and you have to save me. we can talk together, but not to visit. It's much better to be at home. E appunto, come dicevo prima, l'ospitalità e la vicinanza dei palestinesi passa proprio per il rito del caffè. E ad esempio Nagi ha dovuto spiegare ai suoi vicini di casa che si sono recati a bere il caffè a casa sua al mattino. Ha detto va bene, per questa volta possiamo farlo, la prossima no, perché io devo occuparmi della mia salute e della vostra e voi reciprocamente, quindi dobbiamo stare tutti ognuno a casa sua. And after 97 cases right now we have, now and one die, they start to understand a bit, now everybody stay at home in general. And they respect finally the rules. If you go to walk in Bethlehem, I published something in my Facebook, there is no one moving even in Bethlehem. But I'm afraid that people, they are staying at home, but as the families all together. Now this is the problem. Dice che appunto neanche a Betlemme, per andare a Betlemme, perché Deisha e Betlemme sono molto vicini, anche le persone hanno smesso di recarsi a Betlemme, ma lui è preoccupato che comunque le persone non capiscano l'importanza di dello stare a casa. Nagi, can I ask you something? Yes, please. What about the Israeli occupation, the soldiers, they still come in the camp? Now, this is what I'm, the next point I would like to talk about it. Yeah. First, economically we are in good. I mean, because as we say, socially we are connected with each other, support each other. But economically, we don't have like still big problem, but we have problem with the workers. The workers, they stop to work in the private sector, even in Palestine or outside. They don't have income yet, but they can manage. Continue. Allora lui dice, io gli ho fatto una domanda, ma intanto voleva anche spiegare la questione economica. Al momento non è ancora così grave, ma ci sono molti lavoratori che non possono più recarsi appunto a lavoro, quindi potrebbe diventare pian pianino un problema. Hanno come al solito loro la grande risorsa di aiutarsi l'un l'altro e starsi vicini l'un l'altro e supportarsi anche da questo punto di vista. And for the worker, this is, I think, we control, I mean, in general in Palestine, it was 44, 45 cases, and it's controlled for the coronavirus. But for a few days, and after that, we start talking about the workers, they're already working in 48 with Israeli companies, whatever. When they start to come here, you know, we start get increasing more the coronavirus in our society. E dice che un grosso problema sono i lavoratori che si recano appunto in quello che lui chiama il 48, ovvero in Israele. Questa è una pratica che va avanti da moltissimo tempo. Appunto, i palestinesi che si spostano giornalmente, quotidianamente, per andare in Israele a lavorare e poi tornare indietro. E questo è abbastanza pericoloso per quanto riguarda la trasmissione del virus, e quindi sono un attimo in allerta anche da questo punto di vista. Now, when the Palestinians closed the areas to control the workers and they blocked all the streets, nobody can move, even by cars, whatever. Now, the Israelis in that night, they came and they come to the territories to arrest people from the Esha camp and the Bethlehem area, which is they don't respect anything, and for sure they broke in the system in general to protect the virus disease. E purtroppo appunto l'occupante israeliano non smette di dimostrare la sua disumanità, in quanto l'esercito continua a violare le restrizioni per il coronavirus e quindi continua a recarsi in Cisgiordania, in particolar modo anche nel campo di profughi di Deisha, dove arrestano comunque le persone violando tutte quelle che sono le norme sanitarie, e fregandosene, e per giunta appunto portando avanti questa pratica di arresti. E così è successo. And there is two. Sorry. No, it's okay. Yes, and there is two. And there is two cases for the investigator. One investigator, Israeli investigator, they questions and interviewed the people who get arrested, and the doctor also to check the Palestinian. The both of them, they have already virus, coronavirus, and now the Palestinian who get arrested, now they are isolated in the jail, but we don't know nothing about them. It's passed the disease from the doctor and the investigator. E il problema è che appunto queste persone che vengono arrestate si trovano a subire degli interrogatori molto lunghi e pesanti, per giunta con degli ufficiali di polizia o dottori stessi infetti dal coronavirus, e col rischio che gli sia stato anche passato, solo che poi vengono messi in isolamento da prassi e nessuno sa le condizioni sanitarie e di salute di questi prigionieri. And there is two workers right now, until now, there is two workers, they get flu, normal flu, and the Israelis, they work in the company, now the Israelis, they go to the checkpoint and throw them near the checkpoint in Palestinian territories, let's say, and they keep them because they have a corona disease. Now, when they checked by the health sector here, it wasn't corona, just only flu. It means that this is really apartheid, and they don't care of anyone except the Israelis in their state. I don't know if I understood correctly. Some workers, yes, Palestinian workers, work for the Israeli companies. Mm-hmm. Now, they discover there, the owner of the company, that they have flu. Oh. Now, they are afraid. They call the police, and the police, they take them. Okay. The Palestinian workers to the checkpoint, to the Palestinian territories after the checkpoint. Okay. And they throw them in the front of the checkpoint in the street, while the Palestinian ambulance, they come and take them to the hospital. When they make a test, it was just only flu. It's not corona disease. And the Israelis, they deal with the Palestinian as disease in general. Okay. Che ci sono anche questi. You got it? Yes, no, thank you. Ci sono anche dei lavoratori che appunto si spostano per andare, lavorano in compagnie israeliane, e ne hanno trovati due con una semplice influenza, e gli israeliani, il governo israeliano li ha presi e li ha riportati al checkpoint, trattandoli come appunto persone malate di coronavirus, ma abbandonandole un po' a loro stesse, perché appunto loro si preoccupano solo dei loro cittadini. E in realtà però poi è venuto fuori che avevano delle semplici influenze, non erano invece affette da coronavirus. Now in our territories there's a lot of people, they start talking to each other, educate each other and exchanging together. What I understand from all my network here in the local issues, they are really caring and thinking about you, about the Italian, because we know how much it's really worst the situation there, and we are support you, we are all with you, and hope for you, you can pass this situation and go in the safe direction later. Thank you, Naji. Ci dice che appunto lui è in contatto da casa sua con moltissimi altri territori della Palestina, compagni e associazioni, che appunto si stanno sostenendo l'un l'altro, ma che allo stesso tempo la prima preoccupazione che hanno è proprio per l'Italia, noi italiani, i loro compagni, perché si rendono conto che la situazione qua in Italia è molto, molto più grave, e quindi sperano tutti quanti che si possa migliorare nel breve tempo possibile. And I hope from you the Italian government, you will take a good and strong lesson for the European Union, because they don't get any support from European Union. You have to take a decision as a government, to take a decision how Italian can choose their partners and their networks. E inoltre dice appunto che l'Italia, soprattutto il governo italiano, in questa situazione dovrebbe aprire gli occhi e rendersi conto di come le istituzioni europee non stanno facendo niente per supportare l'Italia, e quindi dovremmo essere capaci a scegliere i nostri partner politici un pochettino meglio. E questa, vabbè, è una discussione che inserisce anche all'interno della questione palestinese molto importante. Yes, you're right, Naji. Now, this is the capital system, and this is the system of imperialism and the fascism and the Zionism and everything. Now, we have to, I think, to get a really strong lesson how we can organize ourselves again as human beings, how we can pass that and against the same enemy that we have all together. E Nagy ci dice che appunto questo è un'altra volta un esempio di come le istituzioni sono fasciste, nazionaliste, insomma, nella peggiore accezione possibile, declinata in ogni modo, e invece da questo ne dovremmo imparare come auto-organizzarci fra di noi esseri umani, cioè proprio rapportarci l'un con l'altro come veri esseri umani e supportarci a vicenda. Do you have any question more, or can I add? No, actually, you were very, very clear, and you spoke about everything, also yes. Political stuff. I would like to thank you. I would like to thank you to thank Zam and our comrade in over Italy and all the Italian people around. Now we are supported you. We love you. And we will pass. For sure we will win. Thank you, Nagy. Thank Shukran. You. We love you too. A lot, really. And okay. We hope to come back very, very soon. And if it's You're possible, welcome. Next weeks, maybe we will call you again to know about the situation, what's happening next, okay? If you want. Please do not hesitate. Don't hesitate. I am stay at home, working from home. I am always from the morning and the night, reading, talking with many people around the world. Don't worry. Just call me and I will be ready. Thank you. Shukran, Nagy. Cool. Thank you. You're welcome. Bye bye. Ciao. Bye. Bye bye. Bye bye. Ciao. Che spettacolo. Andiamo avanti. Io mi emoziono sempre quando parlo con lui. In queste ultime settimane, tra l'altro, ci siamo sentiti e lui appunto sapeva che ero a casa da sola a fare la quarantena e mi ha chiamato, mi ha videochiamata proprio perché appunto lui è così. Non farti problema, io sono a casa, quindi certo, ci vediamo, certo. Ci sentiamo. È fantastico. Lo richiamiamo allora. Ma guarda, per me possiamo chiamarlo tutti i giorni. Ci stiamo abituando a fare sta cosa. Giulia? Pesco o scegli te? Vai. Pesca. Pesco. Beh, io non so proprio niente, vado proprio per nomi. Qualcosa che ho visto prima mentre le scaricavo. Questa. Vediamo se... Tanto sono tutte belle, quindi ci sentiamo fra poco? A tra pochissimo. زمن بلا ليلى فأين تكون ليلاتي أنا وأنت زماني الآتي Ed eccoci tornati dopo questo bellissimo brano, dopo questa bellissima telefonata. Forse riusciamo a metterci in contatto con un altro compagno. Giulia, dici? Ma allora ci sarebbero veramente tantissime persone da chiamare. Adesso volevo abbassare un po' l'età media e chiamare un nostro coetaneo. Oddio, più di altri, più che mio, però uno dei miei più cari amici palestinesi, una persona che di fatto ha costituito anche lui la mia famiglia, si è preso veramente cura di me ed è una delle persone che ha fornito questa fantastica playlist di oggi. L'unica cosa è che parla anche lui solo inglese e quindi però possiamo chiedergli come sta in questa quarantena anche lui. Assolutamente. Che dite? Assolutamente. E allora chiamiamo. Ci stiamo per mettere in contatto. Ok, ci siamo. Squilla. Esh? Esh, Giulio. Mahmoud, merhaba. Kifak? I'm good. You? I'm good. You are on air in the radio of ZAM. Welcome. Voila, really? Really? Really, yes. There is Lorenzo with me. Nice to meet you. You too, man. So, Mahmoud, we are doing a program about Palestine. How is the quarantine there? To make a connection with you. So, we would like to know, how are you? What are you doing? How is the situation? So what you want, and also we are using your music, you know. Yeah That's cool, Julia. A little surprise for you. Just one thing, I have to translate after. Yeah. you speak. Okay. Okay, tell us. So here in Palestine you are in isolation since 22 days. So you are in the houses since that day. We don't have work, anything. It's hard for us, actually. E sono in casa, chiusi in casa da 22 giorni per l'esattezza. Non possono uscire ed è una situazione abbastanza difficile per loro. So, we do less working in house, self-working, studying, something like that to figure out what to do in that much time, empty space time. che stanno lavorando da casa, stanno a casa e fanno cose, tipo anche cucinare. Mahmoud, you are doing the physical exercise? Physical exercise, yeah. Fanno esercizio fisico e cercano insomma di tenersi occupati in casa il più possibile. So, of course, our government they do their best to end the coronavirus it's very hard to manage that, especially with the medical health. They don't have much experience here in Palestine, but they are doing very well actually. E il governo palestinese sta cercando di fare del suo meglio per limitare il contagio del coronavirus, solo che appunto non è così facile perché non sono abituati a una situazione del genere, non hanno in alcuni casi nemmeno gli strumenti sanitari per gestirla, però stanno facendo del loro meglio. So yeah, and we don't forget that we are under the occupation. The Israeli government say that we help each other. We help the Palestinian government to fight against the coronavirus. But actually, in the real world, it's not. Dice che appunto non bisogna dimenticare che loro vivono sotto occupazione israeliana e che appunto il governo israeliano ha millantato di voler collaborare con l'autorità nazionale palestinese per contenere il coronavirus, ma di fatto non è quello che sta succedendo. Like they do a really disgusting thing, like when they crash our areas. There's some soldiers like another day they do like spitting at the cars, the Palestinian cars, something like that. So it's awful actually. Dice che comunque l'esercito israeliano continua a entrare nelle aree palestinesi e sembra che qualche giorno fa i soldati israeliani, attraversando le zone palestinesi, sputassero sulle macchine per appunto infettare più palestinesi possibile. So, I don't know what you need else. To know if you have any questions more to know about the situation here. I don't know, how is your life now? You're 23 years old, sir? No, 24. What? You're 24 years old. Yeah. So how is your life for a young man in a refugee camp? Under occupation with the quarantine. What do you think? I'm so sorry about the connection. Too bad, actually. I didn't listen to the last question. No, what are you thinking about your specific situation? Under occupation, in a refugee camp, and also in quarantine. What are you thinking about? Ah... Like any normal person, you need to like work and have a peace life actually. But it's very hard, you know. We work hard to live in a good way. Actually, everything is hard here. Dice che appunto già è il pensiero, no, quello quotidiano di riuscire a vivere una vita normale in pace quando vivi sotto occupazione. Per di più adesso è tutto reso più difficile dal fatto che si è in quarantena e quindi non è facile stare a casa e dove comunque pensieri a... Questa è mia interpretazione anche perché, vabbè, lo sento spesso, i pensieri viaggiano quando non si ha nulla da fare. Yeah, and then I need to make a good thing to make our society better the situation better learn the people be more education, you know, because we are here. They need to focus in the future of this land. E l'impegno, quello più importante per loro, è quello di far imparare alle persone l'importanza anche a livello sociale per migliorare la società in cui vivono. E devono concentrarsi su questo per il futuro. Yeah. So Mahmoud, you start cooking something or no? What? You start to learn how to cook by yourself or no? Actually, I know, because what I'm working in, tourist industry, like a hotel. Uh-huh. I'm working in a hotel. So that's my thing now. Gli ho chiesto se sta cucinando da solo, perché lui vive da solo, ma lui in realtà sa cucinare. Posso confermare, perché ha cucinato per me parecchie volte, soprattutto il mutabbal, che è quella crema di melanzane, è bravissimo a farla, però ha ragione, lavora in un hotel, quindi è la sua, come si dice, è quello che sa fare lui. Go. Actually, like I'm trying to help here in my family to do some the cooking stuff, because like my mom, she's working in the health center, so she's very very busy and working with the corona cases, so she worked very hard, so they need to eat. And I'm doing that. Ci dice che appunto in casa sua lui si sta abbastanza occupando della questione dei pasti, di cucinare per la sua famiglia, perché appunto sua mamma lavora in un centro di cura e si sta lavorando proprio sui casi di coronavirus, quindi quando torna a casa è molto stanca, e allora lui, per aiutare in famiglia, si occupa di dar da mangiare a tutti quanti. So Mahmoud, thank you. Shukran iktir, chtir, for your words, your testimony. Yeah, you're welcome, Julia. Maybe we will call you. Maybe we will call you next week to know about the situation, how is going on. Okay. I will be happy for that. Okay. Actually. Shukran Mahmoud. Yeah. You're welcome. Bye. Have a nice day. You're welcome. You bye-bye. Too. Thank bye-bye. You. Bye. You're welcome, man. Bye-bye. Bene, dai. Wow. Come prima volta, direi che Giulia sei stata bravissima. Ma perché appunto stiamo parlando di Palestina e quindi probabilmente vado a ruota libera. Potrei andare avanti per ore. Guarda, scommetto che se azzardiamo un altro programma completamente diverso non ci sarà troppe modifiche, secondo me. Vedremo. Questa è una proposta. Ma se è un programma su cazzate, anche lì posso andare avanti per ore. Sono bravissima a dire cazzate. Lo sai anche, che c'è già un programma di cazzate? No, quello lo so e lascio il trono assolutamente. No, pensavo si potesse... Siete una coppia formidabile. Ma non saremo mai una coppia, perché fra un po' Riccardo verrà obbligato a partecipare con noi. Il nostro scopo è di fare una Jalappas Band di Zam. Fantastico. La Jalappas dei centri sociali. Esattamente. Non vedo l'ora. Dobbiamo ancora capire i ruoli, perché c'è quello un po' più cinico, c'è quello un po' più scemo e c'è il provocatore. Vediamo. Cioè, Riccardo Io credo di averli perfetto, già identificati come ruoli. Okay, credo di saperli. Ricky, dove ti senti chiamato in causa? Quindi, noi andiamo avanti, stiamo già andando oltre, nel senso che fra pochissimo dovrebbe partire un altro programma, tempo di cambiare un po' di cose qua in redazione. Vi ricordiamo il programma successivo, appunto, di telefonate e restiamo in contatto, quindi noi che rompiamo le palle e la vagina a un sacco di compagni e compagne, amici e amiche, parenti e non, e anche animali, ci stiamo settando anche su quello. E poi andiamo avanti con la musica a rotazione, andiamo avanti a fare anche le nostre cose un po'. Vi ricordiamo che potete scrivere alla pagina Facebook, ascoltare i podcast sul canale di MixXX e seguire la pagina Instagram tenuta da Cigo. Io continuo a insistere su sta cosa. Io Cigo, veramente, Cigo, mi manchi tantissimo, vorrei vederti, cioè spero di vederti prima possibile, sei bravissimo. Grande Cigo, e vi ricordiamo anche di seguire il canale Telegram, di mangiare a pranzo, perché io ho mangiato in fretta e furia davanti ai microfoni, spero non si sia sentito, no. Erano tipo le 4 qualcosa, e io ringrazio tantissimo Giulia, perché come ho già spiegato prima, per me questo è un ponte molto interessante, per riuscire anche a collegarmi a un tipo di cultura che mi ha sempre incuriosito ma che non ho mai avuto la fortuna di conoscere di persona. E rimanete sintonizzati, vi manderemo il podcast di questa prima puntata, della puntata zero di questo programma, e ci risentiamo sabato prossimo con le dirette per la Palestina. Certamente, sempre qui. Io mando, anzi no, Giulia ce l'ha l'ultima, ce l'ha, l'ho visto. Adesso magari ci sarà qualche momento di silenzio, di suspense che cercherò di mantenere attivo dicendo praticamente niente. Questa? Quella sopra. Eccoci qua. Aspetta, posso fare un'introduzione a questa? Devi, assolutamente. Allora, in realtà questo prossimo cantante è anche lui un rifugiato palestinese ma che vive in Giordania, in un campo profughi in Giordania, e quindi è uno di quelli dislocati. E fa della buonissima musica rap trap. Fantastico. È particolarissimo. Fantastico. Il problema è che è un po' politicamente... Infatti i miei amici ci piace molto, i miei amici palestinesi ci piace molto ascoltarlo, però siamo sempre un po' col naso storto perché diciamo ok, perché lui ha diciamo iniziato una sorta di processo di normalizzazione. Okay. Poi la prossima puntata lo spiegherò meglio. Volentieri. Perché ha iniziato un po' a parlare con gli israeliani, cosa che non è molto ben vista, però la musica è molto buona e vabbè, ce ne io volevo comunque ragione. Darvene un assaggio. Proviamo, mi riallaccerò a questo discorso per una provocazione nella prossima puntata. Ai ai ai. E devi saperla cogliere, perché ora io la faccio partire, vedremo. Aiuto. Ci risentiamo, grazie mille, ciao a tutti, ciao a tutte, Giulia ciao. Grazie e ci sentiamo dopo. تعصر اطلع من بيتك اركب بصر تشلف على الاردن خذوا جنسيات ممنوع ترجع على الارض عيش بصحراء اصل الحضارة سوريا الكبرى قلع الثوب ولبس طرقوش نيسي بلاده باع الخرطوش صحي جنبه شجرة لرنوش وباع بلاده ورا ظهره خمرة الحب يلا اسقنيها بلد بلا بحر عيش ما فيها طالعين لنعيش ونرجع عليها ونكون طالعين لنعيش ونرجع عليها هلا بيلعب تشوبي هلا برجالة تشوبي هلا بيلعب تشوبي هلا برجالة تشوبي